è inserito in una staffa AU, non in due staffe, dove c'è la possibilità che il tubo sotto sia bucato. No, lì è chiuso, il tubo è stato lì, è un tubo da 50, ok, è un tubo da 50 in una staffa intera, dritta, curva da 45, è come che sia un piccolo master, il tubo è già infilato, ok? E Natalino ti sta dicendo che a quel tubo che è già infilato, nessun altro tubo può scendere giù, ce ne va un altro, ce ne va un'altra coppia, un'altra coppia di diversa misura, quindi quello è da 2 pollici, poi c'è 1,5 pollici, ci va 1 pollice, il 3/4, e il 3/4, volendo anche il mezzo, per far sì che l'antenna vada più su di come è adesso. Basta, non c'è da attaccare nessuna taffa, la taffa è già attaccata e non dà possibilità di scendere nessun tubo perché è chiuso sotto, è già chiuso. Ma lui ha una taffa di quelli della parabola, va bene così? Esatto, quella taffa della parabola, quella taffa della parabola è da 45 come diametro, ci siamo? Ma non va bene, è troppo corta, ci vuole un tubo, là 1 metro, lo sto dicendo, che lo vendono tranquillamente da Bricome, con doppia taffa, uno ad una testa e uno è fissi quello, poi si va a infilare il tubo dentro, però quel tubo che ti sto dicendo, lui si chiama tubo master, si chiama, no, a differenza di come la pensi tu, vuole 1 metro, un tappo sotto, saldato in modo che quando si infila l'altro tubo non scende giù. È facilissimo, guarda, se, ma se voi utilizzate quello della parabola, non va bene, quello lì non è adatto, non è un tipo di ancoraggio adatto, nella maniera più assoluta, ecco. Ma perché non è un ancoraggio adatto secondo te? Perché vuoi avere ragione, non ne hai. È un ancoraggio adattissimo, perché quell'antenna, essendo così leggera, va benissimo, perché siamo buoni a parlare tutti, poi vai lì e nessuno è capace di fare una cosa, va bene com'è, tranquillo che va bene com'è, perché a quel tubo che c'è già, non è da 45 centimetri, sto parlando di diametro, da 45 di diametro è il tubo della parabola, ok? Lì è stato lì al 45, c'è un tubo da 50 che entra dentro, sempre di diametro, va bene? Se poi quel tubo si vuole tagliare e farlo da 1 metro, si può fare anche da 1 metro anziché da 2 metri, in modo che ci vada a innestare quello che stai dicendo tu, va bene? Però il lavoro è fatto bene, è che quell'antenna è stata messa in quella posizione, perché non avevamo altri tubi, altrimenti quell'antenna sarebbe stata già 2-3 metri fuori dal tetto, ma non avevamo altri tubi, capito? Altre soluzioni lì non ce n'è, non ce n'è. Cosa fai il gatto a attaccare le staffe diverse da quella che c'è? Ci vuole la scala aerea, ci vuole la scala aerea per fare quel lavoro a Natalino, capito? Ma è già così, ce ne sono 2 staffe di quelle a pipetta, una al secondo piano e una al primo, ed è ancorata bene l'antenna, già come dice Giulio, è lui che non ha capito come è stato fatto. È stato fatto nel modo che stai dicendo tu, perché il tubo è telescopico, quello che ho io, è leggero, non è di un tubo d'acqua pesante, no, devo prendere adesso 4 metri di tubo da mezzo pollice per attaccarci l'antenna e infilarci 1 metro di tubo dentro, poi lo chiudo con i bulloni, no? E quindi rimane 3 metri fuori l'antenna almeno, non 1 metro come adesso. Esatto, da aggiungere a quello che c'è, come abbiamo già parlato, ma il lavoro che è stato fatto è quello che sta dicendo Giulio, la stessa cosa, perché le staffe ci sono a muro, c'è anche legata l'antenna e sta fatta a muro, quindi non va da nessuna parte, immaginiamoci che la ghiammata è ancora più leggera di quella. Ma io glielo voglio far capire, è lui che non ha capito che è fatto in quel modo lì. Ma se l'ha giovato io non lo so convinto che l'ha giovato, l'ha giovato una gaggata, adesso diventa un affiliato di Sant'Enna, pure non è farata, è fatto benissimo, è fatto benissimo, non c'è nessun problema, ha quel master che c'è già, io il master, ah fanculo dov'è cazzo, mamma mia, 7 volte sta chiamando, ha quel master che c'è, ok, come lo chiami tu, io master chiamo quelli, i tubi che agganciano le direttive, poi per il resto io non chiamo master quelle, però chiamiamolo master come ti hai detto tu, cioè già, se lo vuole accorciare Natalino, con la moletta si può accorciare, far diventare da un metro, come stai dicendo tu, innestarci il tubo telescopico che stai dicendo tu, e tirare sull'antenna tranquillamente, e mettere l'ancoraggio come messo a muro con la staffa U. Basta, non ce la fare niente lì. Però lui, per tirarla su ancora, siccome i tubi non ne ha, deve comprare, ti sta dicendo, un altro telescopico e raggiungere a quello che c'è già. Ma il lavoro è così, come stai dicendo tu, non cambia assolutamente niente. In quella staffa deve entrare, in quel tubo che sta fatto a muro deve entrare l'altro pezzo, non ci sono altre alternative lì. Unico lo prendo da 4 metri, c'è da 6 metri, lo prendo da 4, unico zingato, ne lascio un metro dentro e poi ci metto due tiranti. E io sono puro e sano. Va bene anche così, lui ti sta dicendo di fare diversamente anziché per essere più leggero, ma se tu compri un tubo telescopico da 4 metri, 2 più 2, è meglio di comprarlo intero, Natali, quello che ti sta dicendo Giulio, è meglio di comprarlo intero, telescopico leggero e fai, anziché perché parte lì da 2 pollici, fai un pollice e mezzo, un pollice e ti riesci a tirare sull'antenna, tenendo conto che c'hai già però gli altri 4 metri, quindi siamo a posto. Capito? Va bene così, perché altre staffe di Giulio non se ne possono mettere, come stai dicendo tu. Anch'io volevo fare un lavoro diverso, ma lì quei muri non li puoi manco toccare, non li puoi manco toccare perché è centro storico, ci tagattano i bookend, fendi e facendi, i buoni i manetti in chimica. Vabbè. D'accordo, comunque. Io non avrei utilizzato comunque la pippa, diciamo così, la staffa della parabola. Io avrei messo due staffe con i tasselli profondi, molto profondi, da almeno 20 cm minimo, di quelli di tasselli d'acciaio, e avrei messo due di quelle staffe, una sotto e una sopra, e avrei attaccato il palo da un metro, primo, fissato, e dentro quel palo da un metro ci infilerei io il tubo telescopico da 6 metri, che secondo me andrebbe bene anche così, perché basta che esca l'antenna praticamente quasi tutta, a livello addirittura di bobina, e l'antenna secondo me va bene così. Comunque, vabbè, ognuno la vede a modo suo, io la vedo così, e ti posso garantire che io ne ho piazzato antenne che tu non hai idea, ne ho piazzato a milioni, non a decine come puoi averne piazzate tu, io ne ho piazzato a milioni, in maniere molto difficoltose, in tetti che crollavano dove mettevi i piedi, eccetera, eccetera, se che ti puoi immaginare, per cui, vabbè, comunque ognuno ha le sue idee, io mi tengo le mie e voi tenete le vostre, non ci sono problemi, e tutti proseguiamo in pace. Avanti Natalia. Ma io ho problemi di ricezione già con questa, se la metto con la bobina in terra a cazzo non ricevo più a nessuno, perché quelli lontani non li sento, c'ho QRM, cazzo. Se la metto più in alto di almeno 3 metri l'antenna, ricevo almeno qualcosina in più. Giulio, io ti ho capito, non è che tu ti tieni le tue idee, io lo so che tu sei stato antennista di antenne TV, io sto parlando di antenne di baracchino, di direttive, di impianti per le radio, ne ho fatto più di te, ok? E lo so quindi come si, non sono stupido, lo so come si fanno, lì non ti fanno bucare, hai capito che non vogliono bucare il muro? Quindi abbiamo utilizzato, come ha detto Natalino, quella staffa parabola che c'era, e ho studiato questa invenzione, vabbè, a questa staffa le innesto un tubo leggermente più grosso, poi si innestano gli altri a quello lì e si tira sull'antenna, così abbiamo fatto, perché non ti fanno fare niente, cosa di buono, in gran dramma, no? Così sacciare, cosa facendo, cazzo lo scatta la riscia, non è un posto come casa tua, come casa mia e come casa di tanti altri che puoi fare quello che vuoi, lì non puoi fare nulla, e quindi la soluzione per poter dare la possibilità a Natalino di parlare era quella che ho inventato io, ma il lavoro è quello, se tu togli quella staffa e metti altre due staffe a muro come ti sto dicendo io, viene un bellissimo lavoro, però non non c'è soluzione, non ti ne va, ti ne va. Non è che non l'ho voluta fare dall'inizio, non te ne fanno fare. Ma poi quelle staffe, ci sono quattro tasselli e un tassello di quelli tiene uno scaldabagno, amico, un usura, e ne so quattro bagni a staffa. Figurati un po'. Io non sono Natalia, le conosco quelle staffe, già ti ho capito. Appunto, ma siccome ci sono delle staffe addirittura a due tasselli, ne avresti messo uno al livello dove adesso, dove è bucato per mettere quella, e una leggermente più su, 70 cm più in alto, per poter appunto piazzare questo tubo madre, come ti sto dicendo. E poi lì già ci avresti infilato direttamente il tubo telescopico e basta. E poi i tubi telescopici ci sono anche da 8 metri, sempre quello, non solamente da 6 metri, ma anche da 8 metri, senza fare casino, adesso innestare altri 4 metri, questo e quest'altro. Comunque vabbè, fate come volete, stiamo solo discutendo e basta. So benissimo che avete fatto un buon lavoro, ma l'ho sempre detto io che avete fatto, quando avete trattato l'antenna, avete fatto un lavoro proprio straordinario, ma l'ho sempre detto. Chi mi ha sentito lo può testimoniare di questo, però siccome oggi deve mettere una Demas che è leggerissima, mi pesa appena 2,5 kg per la verità, e più questo tubo che è leggerissimo, e avrebbe un bel lavoro senza fare troppi sforzi, solo con l'ausilio di un'altra persona su, che quando tiri su il tubo già piazzato, partendo da terra, ti piazzi in strada, ti piazzi il tubo già allungato e ti metti anche l'antenna sopra, va bene? Dal primo piano uno la prende e la tira su, perché è leggerissimo. Arriva al secondo piano, quello deve solo mantenere bene l'equilibrio quando stai a infilarla dentro questo tubo da un metro che ti sto dicendo. A quel punto lì si può anche mollare, l'uomo non deve fare più niente, non deve fare, perché intanto anche se la molli dalla finestra di su, sopra al natalino, non si rovescia più, l'antenna non si rovescia più perché è dentro a un metro, va bene? Poi hai tutta le possibilità della staffa, della finestra in alto di bloccarla, come appunto ho detto, con l'altro collare, o come avete fatto, non lo so, comunque sicuramente con un collare. E allora è facile, e secondo mio è un lavoro facile, senza utilizzare tubi innocenti, vidro, o tubi di là d'acqua che sono pesantissimi, basta li dai. Oltre al fatto che poi magari ti viene anche a trasportarlo, invece quello là, vai da qui come è alto 2 metri, sei a bordo, dentro la macchina, 23 euro e hai risolto il problema del tubo. Secondo me funziona così, voi vedete voi. Giulio, non gli vede nulla, io no. Natalino è che sta organizzando, io non vorrei niente. Il lavoro che è stato fatto prima è stato fatto uguale come hai detto tu. Tutto fatto, innestato, uno in una finestra, uno nell'altro, è tirata su così, in quella maniera, perché non ci sono altre soluzioni. Io quell'antenna, se vado, la piatto da solo, ne tolgo quella e infilo l'altra, non c'è problema. Ma lui la vuole allungare, hai capito? La vuole allungare, la deve allungare, non la vuole. Quindi allungandola c'è bisogno di un altro telescopico, lui lo vuole mettere intero, ma anch'io avrei messo un telescopico natalizio, l'ho già detto, ma quello che c'è già si infila, quello da 45 telescopico, si infila l'antenna e poi uno da una finestra e uno dall'altra tira su e stringe e poi si mette il collare per tenerlo fermo. Non è che ci voglia molto a farlo, attenzione. Però con Giulio ci stiamo capendo adesso, purtroppo non ci siamo capiti. Il lavoro è quello, premesso una cosa, che io di staffa non ne ho montato, ma quella staffa era già montata, Giulio, era già montata, e vedendo quella staffa già montata, perché ho chiesto un attimino, ma è organizzata a Gansemmo, non c'è possibilità di bucare, non c'è possibilità di fare niente, perfetto, questa staffa di chi è? La tua, ok, allora a questa staffa io ti inserisco un tubo da 50, visto che il diametro della staffa è da 45, ok, e poi iniziamo l'altro tubo in questo da 50 e tiriamo sull'antenna, bene, va, ok, e così abbiamo fatto. La stessa cosa è da fare adesso, però adesso c'è necessità di tirarla su almeno di 4 metri, ma Natali, stai attento che mettendo il tubo intero non hai più la possibilità possibilità di scendere l'antenna per fare qualche manutenzione. È un casino. Mettendo il telescopico, come sta dicendo Giulio, è meglio, perché tu agganci il telescopico al master, tiri su, sino alla testa che vuoi. Quando c'è un problema, si mollano i bulloni e il telescopico scende sino alla testa della finestra. Quello mi ti vuole dire. Così è, Giulio? Eh certo che sì. Caspita, è stato l'ora che sto osservando questa situazione. E tra l'altro, se non bastano 6 metri, ci sono anche da 8 metri e costano una stupidaggine, costano. E tra l'altro sono telescopici zingati, già preparati con i vari bulloni, col soldato. L'unica cosa che devi fare è sostituire il bullone, perché quelli sono sì zingati, però sono sempre di ferro zingato. Devi sostituirli con i bulloni in acciaio inossidabile, anche se il dado che è saldato, quando è di ferro, però mettendoci il bullone in acciaio inossidabile, in qualsiasi momento lo puoi svitare e abbassare il tubo telescopico. Io ce l'avevo nell'altra casa, ce l'avevo mia, anche così o Claudio, prima di trasferirmi qua 20 anni fa, ce l'avevo nell'altra casa, piazzato così, addirittura nella ringhiera del terrazzino, che era né più né meno lo stesso lavoro come appunto stiamo parlando adesso, uguale, identico. E avevo un tubo telescopico da 8 metri e addirittura ci avevo messo anche l'antenna della televisione, ci avevo messo di quelli a parabola, di quelli a cosa, non di quelli direttive, di quelli a parabola ci avevo messo, anche quell'antenna lì ci avevo messo, perché nella cosa centralizzata che c'era, dove abitavo io prima, non funzionava un granché, allora mi avevo messo io l'antenna della TV e ci avevo messo l'amplane da 4 elementi su in alto e facevo tutto da solo, tutto completamente da solo, con un faro telescopico da 8 metri che ancora oggi io ce l'ho e lo sto utilizzando anche, per cui per dirti, è per quello che ti sto dicendo, è un sistema abbastanza facile da fare. Ti dico di più ancora, adesso sarà più difficile buttare giù quell'antenna lì che rimontare un'altra con un nuovo tubo telescopico, ne sono più che convinto. Non lo so, poi io vedrò lui cosa vuole fare, non lo so, comunque. Quel lavoro è fatto bene, altre soluzioni non ce n'erano, adesso viene ancora meglio perché l'antenna non ha più i radiali, quindi si innesta l'altro tubo telescopico e si tira su. Appunto è quello che ti sto dicendo io. La piazza in strada, adesso state lì a perdere troppo tempo. Sopra il palo tutto quanto passato, ci metti anche l'antenna nell'ultimo spezzone del tubo telescopico e poi lo allunghi, intanto c'è un'altra persona lì al primo piano che ti dà una mano a prendere il palo man mano che tu glielo passi, perché è facile arrivarci, no? A 3 metri da terra. E da lì lo mantiene, poi sale l'altra persona all'altro piano, nel frattempo l'avete tutto allungato, uno che è nella finestra di Natalino si preoccupa di infilarlo dentro il tubo master, l'altro che c'è sopra deve solo tenere in equilibrio, perché dalla finestra di Natalino, giustamente un tubo così lungo, essendoci la possibilità non molto buona di lavorarci, non lo puoi tenere in equilibrio anche se è leggero, però con l'ausilio di un'altra persona su e lo tiene in equilibrio, lo infili dentro il tubo, a quel punto lì il lavoro praticamente è fatto, perché lo potete anche mollare sia quello del primo piano che quello del secondo piano, perché non si rovescia più. Poi dal secondo piano naturalmente c'è l'ancoraggio col collare, come solitamente si fa, no? È abbastanza semplice, ripeto, è più difficile buttare giù quella che portare su l'altro tubo nuovo col tubo telescopico, anche da 8 metri se per caso non ti bastano 6 metri, è normale, ma è nato lì. Devi avere una scala lunga almeno 5 metri o 6 metri per fare quello che stai dicendo tu, perché si deve fare dalla strada, dalla finestra mia non li vedi i bulloni per mollare il palo telescopico. Oh signore benedetto. Giulio, il lavoro è quello, non c'è un vero dubbio, siamo 183, però ci sono mille difficoltà, perché per poter stringere addirittura i cavallotti degli atleti Massimiliano, loro butto le gare con la corda e sfoggerci tutto fuori di traverso, Giulio, viene male. Lì per fare un bel lavoro bisogna prendere a noleggio una mattinata, una scala aerea, giocarsi 100 euro, perché mi pare che prendono 120 euro con il, compreso il, l'operatore, a ora, in mezz'ora è fatto tutto, in un'ora è fatto tutto, capito? In un'ora è fatto tutto, però lavori in sicurezza a montare quell'antenna, credimi, e tu di antenne ne hai montato. Penso che quella difficoltà che ho avuto io con Massimiliano, Natalino e l'altro di sopra, tu non l'hai mai avuto. Guarda che era pericoloso, ma pericoloso alla grande, Giulio, pericoloso alla grande. Ma lo so qua, ma infatti io l'ho sempre detto che avete fatto un lavoro straordinario quando avete fatto quel lavoro lì. Però oggi come oggi, visto e considerato che Natalino vuole mettersi la Grey Master, che è un'antenna leggera, che ti permette di lavorare con più facilità, allora secondo me con quel sistema non diventa così difficile come è stato la prima volta con quell'antenna con radiali, eccetera, eccetera, nella maniera più assoluta. Ecco perché sto dicendo di mettere cosa leggera, anche perché quel tubo che vendo, quello con la sezione più grossa, perché ce ne sono due tipi da bricomi, c'è quello con la sezione più sottile che va bene solo esclusivamente per mettere un palo di un'antenna TV e basta, ma un palo da massimo 4 metri, quello ha due sezioni, ci sono quelle a tre sezioni, però se tu vai in un negozio di elettronica tipo Fusaro o Classi o quasi o al limite di Siobia, ci sono anche panel automatici. È fattibilissimo quel lavoro, come stiamo dicendo, tranquillamente, con più facilità di quanto sia possibile scendere quella che c'è adesso piazzata. Sarà più difficile scendere quella che rimontare da nuova col palo nuovo e con tutto nuovo, perché è già pronto, senza stare lì a innestare 4 metri, a molte persone ancora e così via. No, non ce n'è bisogno, assolutamente. Poi per scenderla, se uno manda deve scendere, è sempre quello il discorso. Due persone, uno la finestra in su e uno la finestra giù. Uno molli bulloni, quello lassù te la tira su, quello che è nella finestra in basso. La abbassi e incomincia a abbassare il primo bullone e abbassi il primo telescopio, e così via. Già è fattibile lo stesso, anche certo difficoltà ce ne sono, perché ce ne sono, ci mancherebbe altro, non è che si fa così il lavoro così guardando, però ci sono queste possibilità, basta lavorare un pochino con un minimo di intelligenza almeno per poter lavorare. Ripeto, quando avete fatto quel lavoro avete fatto un gran bel lavoro, veramente bello, io l'ho sempre vantato. Però oggi come oggi, visto e considerato che vuole cambiare l'antenna, c'è questa possibilità con più facilità di prima, molto più facile di prima. Vai Natalì. Un attimo che sto facendomi la licenza. Eia, Giulio, io ti dico una cosa, pesa meno quella che c'ha l'antenna che la chiama, te lo gioco di tenne. Il problema è tirare su e innestare il tubo. Tranquillo, guarda, perché l'abbiamo dovuta legare con la corda, quello del secondo piano ha tirato, io lo stesso, piano piano, poi col tubo mi sono sporto anch'io, ho innestato il tubo da 50 in quello da 45 e abbiamo iniziato a tirare su l'antenna, però c'è i radiali, quindi veniva ancora peggio, capito? Mentre quella senza radiali, giustamente il lavoro avviene più facile, sarà più difficile farà Nighiscia che ne sa l'altra, sicuramente al 100%, però lì non ti fanno fare niente, Giulio, non ti fanno fare niente, lei a accendere la riscia la prima volta, cosa state facendo, quella facciata non si può toccare, non bucate, non fate, e quello non va bene, e l'estetica è qui e là, non è un posto, quello è un posto da combattimento, e solo Natalino può combattere i saienti, a chi io non vorrei stare manco così come tutti i chimi, tranquillo, capito? Perché io le antenne ne ho montato anche a 45 metri di altezza, però difficoltà come quella non ne ho mai avuto. Noi abbiamo avuto difficoltà con i due Luca a scendere nelle direttive, che abbiamo avuto a legare con la corda, mettere il tubo, perché il master pesava 50 kg, capito? Il master delle direttive non vuole un tubo del cacchio, ci vuole un tubo che mantiene 200 kg di peso, quindi c'era al master attaccato col cuscinetto reggispinta senza il motore. Ok? No, col motore attaccato, via di giù, col motore attaccato. Quindi abbiamo dovuto sganciare da sotto, dal piantone di sotto, mettere a 45 gradi, tenendo bene col piede legato con la corda e abbassare le direttive. Quella è l'unica difficoltà che ho avuto. Però, ti ripeto, in quella di Natalino ce ne ha fatto uscire la canna, a tre persone con braccia, tre persone robuste, ce ne ha fatto uscire la canna, Giulio. Sì, ma lo so, ma io l'ho sempre detto che avete fatto praticamente quasi un miracolo a piazzare l'antenna così in quella situazione. Allora, oggi come oggi la situazione cambierebbe, cioè sempre utilizzando quella game master, sempre utilizzando la game master, cambierebbe totalmente la difficoltà, non ci sono dubbi. Ripeto, quella che c'è adesso sarà più difficoltà da tirarla giù per poterla poi innestare come state pensando di fare, innestare altri 4 metri, ma io lo cambierei totalmente il palo, comprerei un palo che costa poco, quello che c'è da lì come costa esattamente 23 euro, io l'ho visto e va più che bene, quello con la sezione più grossa, poi c'è l'altro che mi sembra che costa 21 euro, quello però è con una sezione più sottile, quello non lo prenderei io. E sono convinto che si può fare un lavoro tranquillamente senza nessuno tante difficoltà come magari erano prima delle difficoltà, prima sì che erano difficoltà, palo pesante, antenna pesante, radiali, la fretta, insomma, le difficoltà sono enormi, lo so, ma l'ho sempre detto, che avete fatto un gran bel lavoro, però oggi come oggi il lavoro sarebbe agevolato. Allora ti andate lì. Ok, da. Va bene, quando la piazzerò, quando sarà, vuol dire che mi sentirete, cosa vuoi ti dica? Anda bene Meda. Adesso mi busco il palo che dico io che va infilato lì dentro, non c'è nessuna difficoltà io penso, perché quel palo non pesa molto, è di quelli zingattini. Lo prendo al ferro vecchio che ci sono da 6 e da 4 metri, ne lascio un metro dentro e 3 metri rimane fuori. Natali, però se ragioni bene è meglio un telescopico nuovo. Capito? È meglio un telescopico nuovo, si assembla l'antenna a terra, si tiene chiuso tutto il telescopico, si prende come abbiamo fatto con la corda da una finestra all'altra, si innesta, si chiude e poi piano piano si inizia a tirare, 2 metri e si chiude, 2 metri e si chiude, 2 metri e si chiude, perché cosa devi fare? Il primo metro, quello che va su, quello lo apri e lo chiudi, e inizi da sotto a tirare e chiudere, tirare e chiudere sino a uscire fuori. Quello che fece Giulio mio, è molto più facile che innestare un tubo intero, mi capisci? Su quello non ci piove. Lo sai quanto sono lunghi quei cosi? Per avere i bulloni a portata di mano devi avere una scala lunga e devi agire da fuori per mollare i bulloni e per stringerli. Non ci compreso. Sì, che me lo ricordo, non ti ricordo che siamo sbordati la finestra per stringerlo, ma non ricordo, è lì la difficoltà. Però togliendo già quello che c'è da 2 metri, innestato in quella zaffa, ok, Giulio ti sta dicendo, quello lo elimini del tutto e ci mette uno nuovo telescopico. Penso che venga più facile, minata lì, che innestare un altro tubo in quello che c'è già. Secondo me, poi non lo so. Vedi tu, dai, che è arrivata mia figlia. Sentiamo dopo, ripeti Giulio. Ok, qua, vabbè, a dopo. Capito, Natalì, come la sua? Il problema è prima era che ci voleva una cosa lunga, perché avevi i radiali, ma con la game master tu i tubi addirittura li puoi mettere coricati per terra e te li allunghi lì, poi lo tiri su il palo, quando l'hai tirato su già arriva alla finestra di sopra casa tua, la persona che c'è sopra già con le mani lo può mantenere senza bisogno di corde, di niente, puoi stare anche tu alla finestra tua, lui intanto lo sta tenendo perché ce la fa benissimo un uomo a mantenerlo il palo con tutta l'antenna così, perché a quel punto lui ce l'ha a mezz'altezza, dunque non gli viene lo sbandamento, perché il palo ce l'ha a mezz'altezza. E poi con l'aiuto tuo dal primo piano tirate su, lui allo stesso tempo ce la fa stivare fra le mani e la mantiene sempre in equilibrio, tu la infili dentro quel tubo master che ti sto dicendo, anche quello dove c'è adesso, quello a curva della parabola, va bene lo stesso, non ci sono problemi. Sarebbe più facile con il tubo da un metro perché la metti dentro e rimane poi in equilibrio da solo, anche senza mantenerla più nessuno. Però visto e considerato che c'è già questo tubo a curva, diciamo qui a gomito, che mantiene la parabola, lo infili dentro. Quello che è su poi, cosa succede? Blocca il collare e le antenne già piazzate, poi scendi giù e stringi il bullone giù anche, in modo che non faccia movimento anche giù. E mi sembra abbastanza facile da lì. Prima non lo potevi fare, come stai dicendo tu, che ci vuole scala. Perché? Perché avevi i radiali, non potevi collicare l'antenna per terra perché c'era il radiale. Ma la manto va la game master, la puoi collicare anche per terra e te la allunghi tutto, te la allunghi il palo. Non so se riesco a farmi capire, Natali. Abbiamo fatto così, Giulio, abbiamo fatto così, era coricato in terra il palo. Le staffe sono lontane dalla finestra, viene male, devi infilarlo fuori, devi essere fuori per infilarlo, sopra la scala, se no non lo infili perché la staffa è lontano dalla finestra, non è come dici tu. Tu lo devi vedere per vedere com'è. Vuole infilato da fuori, uno da fuori con la scala, sale sopra la scala che si avvicina alla staffa e lo tengono in due, uno al piano mio e uno al piano di sopra, il palo. E così si può piazzare. È logico che l'allungo quando è coricato in terra, come abbiamo fatto con questa. Con la Game Master viene anche meglio a chi non va né radiale né niente. Appunto, allora se hai la difficoltà di arrivarci dalla finestra, dalla staffa, con una scala di 3 metri riesci a rimboccare il tubo, riesci a rimboccarlo dentro il master, no? Non ci sono problemi, tanto c'è quella persona che la sta mantenendo a mezz'altezza lassù, per cui che problemi ci sono? Ti dà una mano, ce la infili dentro, ci vuole una scala di 3 metri che arrivi a quella staffa lì, all'altezza della finestra tua. Ehi, faremo così infatti. Non c'è problema, non c'è Giulio, per quel modo. È che è difficoltoso perché le staffe sono al lato della finestra, capito? Non sono vicino. Quindi vogliono in due a mantenere l'antenna, uno nella finestra mia e uno nella finestra di quello di su. E poi quello che è fuori nella scala lo infila nel master che viene bene. Appunto, qual è la difficoltà? Non lo so, la difficoltà è la prima, con l'antenna e col pali pesanti come avete messo. Certo che c'è la difficoltà, un lavoro che ci voleva veramente forza nelle braccia e allo stesso tempo anche giudizio nel modo come avete fatto, che ce l'avete avuto il giudizio, ci mancherebbe altro. Però oggi come oggi, visto e considerato che vuoi cambiare, ti compri, ripeto, un palo nuovo, che costa poco, non saranno i 25-30 euro che ti rovineranno, e quello lo elimini. Tanto se vai da Marcello a comprare un palo a 4 metri, costa così stesso, io lo so perché io l'ho comprato tante volte da Marcello, il palo, per cui, e poi è pesantissimo, anche se ti sembra leggero, no, è pesante perché quello è ferro grosso, ed è pesante veramente, Natali, fai come ti sto dicendo, comprati un palo a cannocchiare tutto lungo, se non ti bastano 6 metri te lo prendi da 8 metri, che ci sono, non c'è problema, perché io ripeto, ce l'ho ancora oggi io, anche se poi io non lo sto usando 8 metri, lo sto tenendo inserito e innestato l'uno dentro l'altro perché non mi interessa metterlo altro a 8 metri, per dirti, no? Ti viene un lavoro più agevolato tranquillamente, per cui va bene così, secondo me va bene, poi già sei grande, già sai come deve fare, non c'è problema. E infatti non è di quello grosso di acqua, Mino, è un palo zingato che non è di quelli grossi d'acqua, per intenderci, è leggero. No, ma comunque, vedi tu cosa vuoi che dica. È un trattato di... Noi chiacchieriamo, però io, ripeto, no, io cambierei tutto completamente, il palo, completamente. Quello che c'è lui mi derisce, io comprerei un palo a cannocchiale, già pronto, preparato, tranquillamente, e avrei fatto un lavoro più pulito e tutto, senza stare lì a sistemare dentro, va a caricare. Poi tu fai questo innesto così, l'innesto che c'è è già preparato, ci sono i dadi già saldati, ogni deve saldare, se no poi come lo blocchi questo palo che vuoi innestare tu di 4 metri, anche quello c'è da considerare, mentre invece il telescopico è già pronto, no? non c'è problema. Ma è già telescopico, quello che io è telescopico il palo, hai capito? Ci sono già i bulloni per fingere tutto, devo infilarci dentro quello da 4 metri e non devo fare altro. Bravo, è così. Vedi tu, Natalia, non so cosa dirti, vedi tu, fai così. Comunque, vabbè, ognuno ha le sue idee, giustamente le idee sono tutte accettabili, rispettabili, non ci sono dubbi, però io ripeto, avrei preso un palo nuovo e basta, e dunque avrei sistemato la situazione così. Ma voilà, comunque, possiamo anche cambiare il discorso, adesso ne abbiamo già parlato abbastanza di questa antenna, di questo palo, possiamo anche cambiare il discorso. Vai, e io me ne passo in quei retti perché devo mangiare giù. Ci sentiamo magari più tardi. Bravo, d'accordo, allora, dai, buona cena, allora Natali, ci sentiamo le prossime, dai. Buona cena e buonanotte se per caso non ci sentiamo più tardi. Adesso io rimango un altro pochino, vediamo un po' se qualcuno entra, se no pazienza, spengo, 5 minuti all'aspetto, se non entra nessuno spengo e me ne scendo giù. Babu, ciao Natali, ci sentiamo le prossime allora, ciao ciao, saluti in casa, ciao. E altrettanto Giuda, ci sentiamo. Franco, ci sei ancora all'ascolto? Sì, mi stavo ascoltando Giulio, aspetta, mi avvicino. Sì, mi stavo ascoltando giù. Io qui, okay. È perché non sei entrato, perché tu avresti dato la tua impressione ed idea per fare quel lavoro lì. Io rimango all'idea che prima devo vedere bene la situazione, così io ho visto solo la parte bassa di quell'antenna, non ho visto l'altra pipetta, diciamo, l'altra che c'è sulla finestra del secondo piano, diciamo, più in alto. Da quanto ho capito è un po' lontana, non ci arrivi bene col braccio su quella staffa del secondo piano, deve essere disallineata un po' dalla finestra. Ma penso che quando è il secondo piano penso che ci arrivano, perché se l'hanno bloccata vuol dire, non è che l'hanno bloccata con la scala, quella l'hanno bloccata dalla finestra del secondo piano. Il problema, secondo quello che stava dicendo Natalino, è imboccare il tubo dentro questo tubo master, ma lì basta una scala da 3 metri per arrivare all'altezza della finestra di Natalino per poter dare una mano a imboccarlo, perché capisco, se lui non ci arriva con le braccia è chiaro che a un certo punto ci vuole uno con una scala da 3 metri per imboccarlo, però siccome hai l'ausilio di quella persona che c'è nell'altro piano sopra, che quello lo sta tenendo tranquillamente senza nessuna difficoltà, perché un uomo lo mantiene benissimo un palo telescopico con un'antenna Game Master che non è così pesantissima, ce l'ha a mezz'altezza e lo può infilare benissimo dentro il master, che poi a quel punto lì, essendo un palo lungo come dicevo io da un metro, rimarrebbe già pronta, fissa, anche mollandolo sia dal primo piano che dal secondo piano, tutto lì, è quello che intendevo io. Poi naturalmente dal secondo piano l'hanno bloccato col collare, come hanno fatto per questa, e per cui andrebbe bene fare il lavoro così. E poi scendendo al piano di sotto, al primo piano, stringe il bolone anche lì, e essendoci questo tubo master, come stavo dicendo, la sistemerete anche lì, in modo che non vibri quando magari c'è il vento, eccetera. Non so se mi sono spiegato. Sì, io ho capito, però a quanto pare loro, io ho capito che la seconda staffa, quella che c'è in alto, non è accessibile, cioè a quanto pare ce l'avevano mezzo legato, mezzo appeso per arrivare a fissarla sul tubo superiore, quello alto. E giù giù c'è invece giù, penso che non ci siano problemi, perché giù ci arrivi con una scaletta da 2-3 metri. Il problema, secondo me, è su. È la staffa, diciamo, l'altra pipetta, quella del piano alto, che lì loro non arrivano. Perché sennò sarebbe un gioco, cioè io anche dal secondo piano la sollevo l'antenna e la imbocco nel tubo master, cioè senza neanche scala, dal secondo piano stesso io la sollevo e la inserisco nel tubo master, senza neanche scala, secondo me. Però secondo me il problema è su in alto, bisogna, cioè, è lontano dalla finestra la pipetta. È un metro, non ci arrivi, ti devi legare, non ci arrivi, è un metro. La rove attacca al tubo master, si è già con un tubo master, più lungo di quello che sta dicendo Giulio, perché era innestata così, però si può fare anche più corto, ok? Facendolo più corto va bene lo stesso. Da giù non c'è nessuna difficoltà, dalla prima finestra non c'è nessuna difficoltà. L'unica difficoltà è tirare sul telescopico e stringere, perché dalla finestra a dove arriva il tubo c'è un metro, non ce la fai a stringere. Avete capito sì o no che l'unica difficoltà è quella? E per poter stringere quella lì abbiamo dovuto legare una persona, sai cosa vuol dire legare? Imbragata una persona in facciata per poter stringere quelli, da paura. Per fare quel lavoro ci vuole una scala da 6 metri, che arrivi almeno alla seconda finestra in facciata, e allora con la cinghia di sicurezza puoi andare a stringere il telescopico, se no è un casino. E quindi l'ho capito bene io, cioè il problema rimane sulla staffa superiore, che è lontano, non è accessibile, se no sarebbe stato un gioco da ragazzi, se le staffe fossero passate a fianco alla finestra, sarebbe stato un gioco da ragazzi. Ma non me lo stai dicendo, l'ho piazzata io, sono andato, mi ho preso prima tutte le misure, ho fatto un sopralluogo, ho studiato bene e siamo andati su quello. Per poterla mettere già assemblata abbiamo dovuto tirare i telescopici, perché anche quelli sono 3 telescopici, capito? Però ce ne vuole un quarto di telescopico, altri almeno 2-3 metri, neanche 4, capito? Perché se avessimo avuto altri tubi il giorno, è stato fatto un lavoro così veloce, perché ci stavano uccidendo, non ammazzando, uccidendo direttamente, eravamo già morti, era gente che veniva a fare i denti, disendi e rompendo le balle, in parole povere. Io quel lavoro l'avrei già fatto da prima, ma tubi non ne avevamo. Io sono uscito alle 2 da lavorare, alle 2 meno 10, alle 2 e un quarto ero già a casa di Natalino, ero stanco molto, anche Massimiliano, e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Però il lavoro è fatto così, come sta dicendo Giulio, però l'assemblamento, l'antenna, noi l'abbiamo dovuta tirare su con la corda, inserire nel master già montata, perché non c'è possibilità di stringere il telescopico dalle finestre, sia del primo che del secondo piano. La cravatta che c'è già, era già attaccata a muro, io Giulio non ho toccato niente, era già tutto pronto. Quella cravatta, perché non si può, non puoi accedere neanche a quella, a stringere con i bulloni, è legata col fil di ferro, capito? Ecco, questo è l'unico problema che c'è. Sì, ho capito, la difficoltà è non sta a fare su. Vabbè, comunque ce l'avete fatto, vuol dire che una seconda volta con un'antenna più leggera si può fare ancora più facilmente. Vabbè, comunque il procedimento era quello. Ho capito benissimo come tu hai capito la mia idea, però quello che dico io, oggi come oggi, è più difficile buttare giù quella vecchia, cioè quella lì che c'è adesso, che rimontarne una nuova, utilizzando lo stesso sistema. Dal momento che il palo telescopico sarebbe molto più leggero, l'antenna anche molto più leggera, e senza la difficoltà di irradiare, soprattutto quello, che quello è la cosa principale, il fatto di irradiare, che non ce ne sono. Mentre invece prima era difficoltoso, non a caso, quando l'avete montata avete purtroppo, avete, per forza di cose, avete tirato su, un radiale si era anche un po' piegato, ma comunque è andata bene lo stesso, non c'è problema, tutto lì. Va bene, comunque, ci siamo capiti. Avanti, Fra. Scusa, Fra. problema non sussiste, tutto funziona alla perfezione. L'unico problema, ti ripeto, anche togliendo il tubo che c'è, mettendo un tubo telescopico da 8 metri, gli 8 metri li devi fare a terra, stringerli a terra e poi tirare su. L'unica meno difficoltà che hai, che l'antenna non ha radiali, ma il peso dell'antenna non influisce, influiva solo il problema dei radiali, che era una rottura di scatole, ok? Con la Gemmaster questo non succede, è più facile, ma il problema è che tu il telescopico lo devi allungare tutto a terra, addrizzarlo con la corda, inserirlo nel master, perché altrimenti non lo puoi tirare su, perché non ci arrivi con le mani, ok? Se invece hai una scala da 6 metri, di quelle anche 4 più 4 ad esempio, di quelle dell'Enel, per farci capire, quelle sono ideali da inserire, oppure una scala a 6 metri, già riesci a fare qualcosa in più, ma senza scala in facciata non è fattibile fare quel lavoro. Per il resto il lavoro è uguale a quello che stai dicendo tu. Io avrei fatto come stai dicendo tu, tolto quello che c'è, il master che è troppo lungo, messo il master corto, ok? Se no, altrimenti avrei messo già, avrei già preso un telescopico da 8 metri, schedula 40, non di quelli schedula 25 per antenne TV o 30 che siano, schedula 40, bello robusto, insomma che non sia molto pesante, e nettato direttamente nel master che è già montato. Punto. Il problema è che devi, il telescopico devi allungarlo a terra e tirarlo su già pronto, perché se no non ci arrivi senza scala. Ecco perché abbiamo fatto quel lavoro della corda. Sì, ma l'ho detto anche poc'anzi che bisognava allungare tutto, anche l'antenna piazzata per terra addirittura, visto considerato che non ci sono radiali, uno lo mette per terra addirittura, piazza tutto, stringe i bulloni del telescopico con l'antenna già piazzata, poi si tira su il coro e già si arriva al piano di sopra, al secondo piano, tranquillamente si arriva. E dunque è più fattibile, no? Visto considerato che non ci sarebbero le radiali, tutto lì, vabbè, comunque va bene lo stesso, in qualche maniera lo farà fare o lo farà lui, farsi aiutare, non lo so, in qualche maniera troveranno comunque il far lavoro poi come si deve fare. Avanti Franco. Claudio, quanti piani sono in tutto? Quanti livelli diciamo quegli appartamenti? Quanti piani sono? Due piani sono, il primo piano dove abita Natalino è quasi un piano a terra, sono due metri qualcosa, non lo so, 2,5 metri, neanche, non lo so, non mi ricordo. Ma non c'è nessuna difficoltà, assolutamente, ricordo che sono andato a vedere il posto, l'ho studiata subito, immediatamente, ho detto vabbè, si fa così e basta, altre soluzioni, ma era tutto già pronto, le staffe erano già attaccate al muro. L'unico mio problema è che il tubo che lui aveva non innestava in quel master da 80 cm che c'è. Ok, allora sono andato a casa, ho preso un tubo, perché quel diametro è da 45, il diametro di quella staffa è da 45, io ne ho messo un tubo da 2 metri da 50, diametro 50, e lì poi abbiamo innestato l'altra antenna. Tutto lì è fattibilissimo. L'unica difficoltà che c'è in quel posto è che devi il telescopico assemblarlo a terra assieme all'antenna e tirarlo su già tutto pronto. Se fosse come stai dicendo tu, Fra, che io ci arrivo dalla finestra a stringermi i bulloni del telescopico, me la piatto da solo quell'antenna, da solo, ma non è fattibile quel problema, cioè quel problema non è fattibile, bisogna assemblare tutto a terra e poi innestare nel master che c'è da 80 di lunghezza, diametro 45, ok? Tutto lì il problema, se no quell'antenna è una cazzata a piazzarla, e adesso è ancora più facile, perché non c'ha radiali, la tiri su, la appoggi a muro e via, e vamos alla paglia. La difficoltà è sempre quella di tirare sul telescopico. Devi fare bravo Filippo, sì. Quindi sarà più di un metro, perché un metro per male ci arrivi col braccio, sarà più di un metro allora. E poi dimmi dalla finestra, a che livello è dalla finestra, in alto, in basso, a metà finestra? A metà finestra, abbiamo dovuto legare e imbragare a Massimiliano per poterla ancorare, ma stai scherzando. Lì per fare un lavoro fatto bene ci vuole l'autoscala, se no la carrucola con la seggiolina, cioè ci vuole qualcosa di sicurezza, perché imbragato sotto la pancia, così, sporgendoti di un metro e mezzo fuori, ma stiamo scherzando, cioè stavamo mantenendo un peso di 100 kg in due persone per poter stringere la cravatta, ma non esiste una cosa del genere. Giulio, è questo che ti voglio dire, l'unico problema è quello lì, per il resto non ci sono problemi. Sì, ho capito io, sì, ho capito benissimo, per cui praticamente abbiamo detto la stessa cosa, lì. Tutto sommato siamo due ore che stiamo parlando, ma abbiamo detto la stessa cosa, niente di più e niente di meno, per cui va bene così. Vabbè, comunque la soluzione già la trova Natalino, o perlomeno chi lo aiuterà troverà di nuovo la soluzione come fare. Avanti fra. Un attimo che sono in verticale con mia moglie. Ok, va bene, capito, qua è così, lo so, certo, non è come mangiarsi un piatto di pasta asciutta, sarebbe più facile, però siete considerate che un lavoro, quando c'erano molte, ma molte difficoltà, l'avete fatto, e dunque non vedo la ragione perché non si debba fare di nuovo allo stesso modo, con meno difficoltà. Avete considerato che con un tubo più lungo, telescopico, è più fattibile tutto quanto. Tutto lì ho qua, per cui no, va bene, dai, non c'è problema. Sì, ma non ci piove, il tubo telescopico lì va molto bene, non c'è problema. L'unico problema è che devi preparare tutto a terra e poi nel ferro del master, perché anche se è telescopico non puoi lavorarci dalla finestra, capito? Te lo sto dicendo da poco fa, però il lavoro è fatto così, il master c'è già, è un po' più lungo, quello si può togliere, mettere più corto non è un problema, però intanto possibilità il tubo di scorrere non ne ha, perché è chiuso sotto, è già chiuso, perché la staffa è di quelle a dritte, già hai capito, no? Quindi una volta tu unisci il tubo lì che fa la master, no, non va più da nessuna parte, l'antenna rimane ferma, non c'è bisogno di poi leggerissimo, capito? L'unico problema è stringere il tubo, è una cosa che ci ha dato veramente mattana, adesso è più facile perché l'antenna non ha radiali, quindi va bene così. Comunque dal momento in cui Natalino decide di fare il lavoro, sicuramente mi avvicino anche io e do la mano anche io, e studiamo bene le cose, perché diversamente non è che puoi mollare una persona così, perché lì c'è da farci male. Va bene, Franco, riprendi. Capo, c'era mia moglie che mi stava sopravvolando, mi doveva dire una cosa, dai, ti chiedo scusa. Sì, anch'io, se posso mi avvicino anch'io, vorrei vederla anche, se capita qualche giorno mi fermo, me la controllo quella zona lì, se c'è Natalino magari, era uno sguardo così, perché così a parlare così non ti rendi bene l'idea di come veramente è lì il posto, capito, il pericolo che c'è. Avanti Giulio. Ok, sì, io già l'ho vista un paio di volte, già l'ho visto come montata, e avevo detto hanno fatto un lavoro straordinario per piazzare questa antenna, perché non era così tanto semplice, però quello che intendevo io adesso, che è la semplicità, adesso si verifica quando faranno di nuovo il cambio dell'antenna, almeno per installarla, e aggiungo che per me c'è più difficoltà a scenderne quella che a tirare sull'altra, sempre però cambiando il tubo telescopico, che chiaramente bisogna piazzare per terra, tutto per terra, non ci sono dubbi, questo lo sappiamo benissimo, tutto preparato, tutto stretto, piazzato anche l'antenna, fissato anche il cavo al palo, in modo che il cavo di discesa dell'antenna sia già fissato, senza stare lì a poi a pensare a me a nastrare, eccetera eccetera. Quando si tira su, per conto mio, c'è più facilità, ma ci siamo capiti comunque, avanti qua. Tutta la perfezione, così l'abbiamo montato quella, così si monterà l'altra. Ripeto, ribadisco che la difficoltà che abbiamo avuto in quella là, avremo in questa. A fare che cosa? A fissare il tubo in facciata per non muoversi. Tutto lì il problema. Il resto problemi non ne abbiamo avuto, assolutamente. Un po' di problemi abbiamo avuto perché i radiali toccavano al muro, quindi l'abbiamo dovuto allargare, prima prima di friggere abbiamo fatto scavalcare i radiali dalla mantovana e poi abbiamo bloccato. Non ce n'è problema, l'unico problema che ci sarà è bloccare il tubo in facciata, quello che praticamente ci deve rimanere fermo. E quello è stato bloccato perché non si arrivava alla cravatta, legato, e l'ha legato Massimiliano sporgendosi alla grande, da paura, perché io che non temo altezze, che non temo niente, in quel lavoro lì assolutamente, ma nel modo più assoluto. Capito? Assolutamente no, perché io posso stare a 50 metri di altezza, ma se sto camminando, se sono in tranquillità, sì, ma sporgermi così, legato per amore di Rugodu, un pezzo di Gannao, no, no, non è possibile, tutto lì, vai fra. Capo, dai, no, adesso mi avete incuriosito, se capita la voglio vedere proprio questa situazione com'è, dai. Comunque ci sono due pipette, diciamo, di parabola, una giù e una su e basta, poi il resto invece il filiferro dove è legato il filiferro? Una ce n'è di pipetta fra e torra, una che è all'altezza della finestra di Natalino, a 2,5 metri, ok? Quindi l'antenna sembrata a terra, è stata legata, anzi l'abbiamo presa, uno dalla finestra di giù, l'altro dalla finestra di su, e l'abbiamo inserita nel master. Il problema è affissarla dopo viene il problema, perché sopra non ci sono né pippe né pipette, c'è una cravatta piccolina dove non ci arrivi con la mano a cravattarla, e quindi imbragato con la corda Massimiliano l'ha stretto col fil di ferro, neanche col fil di ferro mi pare che è legata con la corda stessa. E quindi c'è una staffetta solo, che la tiene in asse. Quindi il problema è tagliare quel fil di ferro, appena tu tagli il fil di ferro l'antenna è libera, la devi solo sganciare da sotto. Tirarla in alto, sfilarla da 80 cm di master e farla calare fino a terra. La stessa cosa devi fare per rinnettarla di nuovo, una volta che è assemblata. Ho capito, dai. Certo, sì, questo è più pesante, una volta se lui cambia il palo telescopico, poi sarà più leggero anche da manovrare e da gestire da su. Beh, veda lui, dai. Franco, è già telescopico. Devo solo aggiungere un palo da 4 metri per salire di più l'antenna e basta. Però sempre di quelli zingati leggerimi, no pesanti, è già telescopico il palo. Ho capito. Se capita qualche sera vengo a vederla. Ecco. Avanti Giulio. Vabbè, dai, comunque. Dai, la serata è quasi passata, sono già le 7:30, ma qua un po', e dopo magari mi chiameranno per la cena. Va bene, dai, comunque, anche stasera abbiamo scambiato 4 chiacchiere, in santa pace, tranquillamente, non è entrato nessun altro a farci compagnia, pazienza, e va bene così lo stesso, non c'è problema. Avanti Claudio. Beh, anche questo fa parte di scambiare idee, scambiare opinioni e cercare di vedere un pochino come sono le cose, fa parte anche di questione, no? Si può far vedere sempre di battate, di menzione. Questo è un lavoro molto, molto, viene un bellissimo lavoro fra, perché va bene già com'è, e purtroppo l'antenna è troppo bassa, perché ripeto, non avevamo altro materiale disponibile al giorno, tra l'altro mi ricordo che era un periodo anche... non ricordo se la giornata era bella o brutta, ma penso che era bella, non mi ricordo, però la stanchezza si è fatta anche sentire, perché ce ne ha fatto scendere la mazza, ce ne ha fatto scendere la mazza. Comunque l'antenna è stata piazzata e grazie a Dio c'è un po' di anni e già va bene così, già ne ha pregio di colpi. Sta tranquillo che non scende, perché quella staffa c'ha 4 tascelli di quelli chimici ed è una buonissima staffa. Il problema è tutto il resto. Però è già tutto telescopico, non è che c'è niente di fisso, attenzione, è già tutto telescopico, l'antenna è stata assemblata a terra e poi infilata nel master e agganciata. La difficoltà l'abbiamo avuta con i radiali, il master radiale non ne ha, quindi sicuramente è più facile, il peso delle due antenne sono molto similari, perché non pesa un cacchio quella antenna che abbiamo montato. Poi sono più i tubi che l'antenna, quindi però stiamo parlando già di 9 metri di tubi telescopici, capito, da tirare su, da drizzare in un vicoletto stretto, da drizzare, portare su, infilare nel mazzo, cioè è stato un bellissimo lavoro, per carità, questo sarà ancora meglio sicuramente, però la difficoltà c'è sempre. La difficoltà c'è sempre, non ci sono problemi, vabbè, comunque, vedremo quando sarà, sì, giugno, sono le 19.37, cioè io 36, quindi sono quasi le 8 meno 20, fra un po' vi lascio, avanti i Natali dei Clinti.